Salve a tutti cari amici e benvenuti alla puntata numero 23 di Vagabondo in giro per il mondo. Come sempre al microfono per voi il vostro speaker Vagabondo Fumino e anche oggi mercoledì 22 marzo dell'anno politico 2017 sono qua con un interrogativo che mi balza in testa perché mi è capitato di assistere ad una scena emblematica per questo tipo di dubbio e quindi mi sto facendo delle domande e mi sta un po' rimbalzando in testa e in pancia appunto questa questione e la cosa che mi viene da pensare è: ma l'occasione fa l'uomo ladro? O l'uomo cerca l'occasione per diventare ladro? Questo secondo me è un interrogativo che è alla fine un po' da snocciolare perché si parla di ego, chiaramente, alla fine, a meno che chiaramente allora non è giustificato niente il furto e tutto quanto, anche solo se non fosse proprio un furto, ma se fosse anche fare i furbi nei confronti delle persone, cioè non è mai giustificato anche se fosse per fame quello che va a rubare da mangiare perché non ha per mangiare, chiaramente quello ha fame e tutto quanto, però rubare è comunque una cosa che è preferibile non fare, ma per una serie di motivi che non sono mai esclusivamente legati alla legge, al discorso di andare in prigione, l'appropriazione indebita, come è addirittura chiamata nel codice penale, l'appropriazione indebita, quindi il desiderio di possesso, di avere, è una roba che ci viene da bambini, che è archetipica nelle persone, e questo è mio, questa cosa è mia. L'uomo che dice questa donna è mia, il mio uomo, il mio fidanzato, questa cosa di possesso è un attimino presente in tutti i discorsi, no, pensateci bene, è l'appartenere, questo, la bramosia di avere, di mettere in cascina, e questo vale per tutto se ci pensate bene. Ne ho parlato anche qualche puntata fa, portandovi un po' per ridere, un po' come sempre faccio, un po' per scherzo, un po' per burla, ma molto anche un po' per farvi pensare, per farvi scattare la sensazione che forse le cose potrebbero andare anche diversamente da come vanno. E l'esempio che portai alcune puntate fa era le persone che si riempano il fondo, il garage, che ne so, di carta igienica o di bottiglie d'acqua o di scatolette di tonno, che ne so, per paura che scoppi la guerra nucleare e che non abbiano più da andare al supermercato a comprarsi il mangiare. Che è chiaramente una paura irrazionale, o comunque sia, non è magari irrazionale la paura, anche perché non si sa mica, magari domani scoppia la guerra nucleare davvero, però è irrazionale che ci si riempa il fondo di generi di questo tipo, perché che senso ha? Non ha senso. Beh, e questo lo avevamo già affrontato nelle puntate precedenti dove parlavamo di questo. Detto questo, è l'ego che ci porta a avere questo senso di proprietà. Addirittura adesso ci vogliono far passare la cosa che è giusto, che è la cosa più buona da fare, è sparare a una persona che si introduce in casa magari per rubare. Bene, io non voglio dire, questo è un argomento molto delicato perché chiaramente tocca l'ego delle persone, perché chiaramente diamo il valore di una vita umana, a cosa lo diamo? Ad un vaso? Ad un quadro? A 100 euro? A 1000 euro? A un anello? A cosa diamo, a cosa equipariamo il valore della vita umana? Siamo alla tratta degli schiavi, forse siamo alla tratta degli esseri umani? Cioè, allora la vostra vita umana, a voi magari che siete lì a fare il Charles Bronson della situazione, pur magari non avendola nemmeno mai vista davvero una pistola e non avendo assolutamente idea di come si faccia a sparare, la vostra allora di vita umana quanto vale? Quanto è giustificato per un'altra persona di uccidervi per voi? Allora, quanto può valere? Io comprendo che, come ho detto all'inizio della puntata, rubare è un reato, è una cosa che non si fa e che è chiaramente sacrosanto che sia perseguito dalla legge. Ci mancherebbe altro, ma appunto c'è la legge, c'è una legge, ma che legge è una legge che permetterebbe eventualmente di far fuoco su una persona, di decidere della vita e della morte di una persona, anche solo di metterla in pericolo? Non esiste, cioè, e che è questa voglia addirittura? Allora, l'uomo non solo è l'ego della proprietà delle cose, degli oggetti, addirittura è l'ego dell'essere Dio, dell'essere colui che decide del bene e del male, della vita e della morte delle persone. E fa molto, riempie la pancia questo discorso, ma è un discorso che è fuori di cervello. Cioè, come è possibile che lo Stato eventualmente dica alla gente: bene, sparatevi pure, sì, se quello bussa e spara, voi sparate, poi si guarderà quanto vale, quanto può valere la vita di un uomo, per quanto sia una vita sbagliata, per quanto sia una vita fatta di crimini, che la soluzione sia sparate all'impazzata? No, non è questa la soluzione, anche perché se, pensandoci bene, se lo Stato permettesse a un proprietario, ma io mi metto io, cioè se io nel cuore della notte fossi svegliato dai ladri e lo Stato mi permette di avere una pistola sul comodino pronta a sparare contro il ladro di turno, il ladro dal momento che lo sa, se prima veniva senza pistola, magari dopo viene con la pistola pure lui, perché se quello dice, se il suo lavoro è rubare, va bene? Se il suo vivere è rubare, chiaramente se lo fa in una condizione per cui di là non trova le pistole, magari la pistola non ce l'ha, ma se sa che è lecito che tutti abbiano una pistola in casa e che la possano tranquillamente usare, allora probabilmente anche il ladro si armerebbe. E allora che succede qua? Ma che ci vogliono far calare di numero, ci vogliono far sparare all'impazzata? Tanto più che se poi tutti ci avessero una pistola in casa, magari ai più gli parte anche il pazzo e vanno a fa casino al di là del discorso della legittima difesa, che chiaramente la legittima difesa c'è nella legge odierna, cioè è una cosa che è prevista. Se una persona si difende legittimamente da un'aggressione, non viene mica condannato, non viene mica incarcerato, magari viene indagato, chiaramente quello è una cosa che viene fatta d'ufficio, però se la legge recita, mi pare, se la difesa è proporzionata all'offesa, si parla di legittima difesa. Ma chiaramente se quello con un cacciavite ti sfonda un vetro per entrare in casa e te gli spari e lo fai fuori, come fa a essere legittima difesa? Perché cosa è che difendi? Difendi la tua vita o difendi il tuo orologio? E allora cosa vale? Cioè, la vita di un altro uomo può valere anche la mia vita, nel senso, se ho davanti una persona che sta per uccidermi e guarda caso, e per qualche motivo invece lo uccido io, chiaramente quella è legittima difesa, perché alla fine morsa tua, vita mea. Mica erano scemi quando lo dicevano. Ma se per difendere 100 euro spari a una persona, forse è più corretto iniziare a pensare che questa cosa è sbagliata e non può essere. Che poi chiaramente è il cavallo di battaglia dei soliti politici di turno, che gli importa una storia a loro della legittima difesa, a loro gli interessa solo di avere i voti e poi finisce lì, ma questa è comunque un'altra storia. Bene, allora, detto questo, l'ego cosa ci fa fare? Ci fa perdere il cervello da questo punto di vista. Quindi cerchiamo un attimino di assopirlo, cerchiamo un attimino di essere più solidali, di essere più mutuali, ma per avere anche in ritorno questa mutualità e questa solidarietà che si sta perdendo, questo anche solo salutarsi, no? Cioè proprio tutti concentrati nel ritmo della vita che, come dicevamo nell'ultima puntata del Vagabondo, non abbiamo scandito noi, però noi comunque in qualche modo riusciamo a difenderci. Di conseguenza mi sembra preferibile riuscire a controllare un attimo queste cose che sono molto animalesche e ragionare con il cervello, che effettivamente ci è stato donato una capacità di ragionamento molto superiore agli animali, e di conseguenza sarebbe preferibile se questa cosa fosse fatta. Detto questo, cosa è successo per cui io ho iniziato a domandarmi dell'uomo ladro e tutto quanto? Perché chiaramente una persona per bene, in giacca e cravatta, una persona splendida, ci mancherebbe altro, mica un criminale come piace molto dire a certa gente, un criminale straniero, un extracomunitario, un criminale e tutto quanto. Cosa ha fatto questa persona? Niente, è solo che ha avuto l'occasione di essere ladra ed è stata ladra, perché chiaramente io arrivo in un posto e c'è una persona che conosco, la vedo un po' preoccupata, dici che succede? Ma guarda, ero qua che due conti, c'erano 5 persone che dovevano pagare questa quota qua, quindi il conto è 5 per 5 è 25 ad esempio, eppure c'ho solo 20. E io a questa persona gli ho anche chiesto, ho fatto bene perché mi sembra di aver... E questa persona gli ha detto, sì hai fatto benissimo, e certo avevo fatto benissimo a sbagliare facendogli un resto più alto di quello dovuto e praticamente non riscuotendo la quota della cosa che doveva pagare. Bene, 50 euro mi pare siano state la cifra in questione, 50 euro. Allora quello lì che avrebbe dovuto fare? Avrebbe dovuto tirar fuori la pistola e sparare, perché gli ha rubato 50 euro di fatto, o no. Oppure la scusa è, ma ha sbagliato lui, sì però te li sei intascati, coscientemente, perché siamo tutti bravi, come dicevano i furbetti del quartierino, a fare i finocchi col culo degli altri. Poi quando ci arriva l'occasione per essere un po' ladri, per fare la grattatina del lunedì mattina, tri, grattiamo e zitti, e poi appena usciamo fuori, ah, quello extracomunitario, ladro, ah sì, magari. E allora c'è qualcosa che non va, non siamo proprio coerenti con noi stessi, vero? Vi torno apposta cosa, eh? E voglio dire, l'occasione fa l'uomo ladro, vale un po' per tutti, nessuno esente, nessuno esente, me compreso che sto parlando. Però pensiamoci bene, perché non è il caso di farsi prendere da questa cosa. Cerchiamo di migliorarci da questo punto di vista, perché la società egoica è una società destinata a implodere, e questo è fuori di dubbio. Un altro esempio: avete visto, gira su internet un video in cui è stato fatto un esperimento, chiaramente. Allora, l'esperimento cosa dice? La gente, gli intervistatori vanno al mercato e al mercato alla gente chiedono cosa ne pensa del governo. Ora, mi pare sia stato fatto durante il governo Renzi. Che ne so, intervistati in 10 e in 10, ah no, questo governo è una merda, questo governo ah, bla, e fa schifo, e ha la fame, e vaffanculo, e tutto quanto. Finita la domanda, l'intervistatore propone all'intervistato, dice, ma se io vi do 50 euro, potete dire il contrario? O su 10 non ce n'è stato uno che ha detto di no, ah no, io sono integerrimo, io sono una persona per bene, questo governo fa schifo e allora io non cambio idea. No, si sono presi tutti i 50 euro e nella finta intervista, perché era una finta intervista, hanno detto totalmente il contrario. Oh sì, bello Renzi, bello, bravo, a quel ministro, che bellezza, che bontà, come si sta bene adesso in Italia, non si sta bene mai. E allora, ragazzi miei, ma di che si sta parlando? Di cosa stiamo parlando? Allora, la domanda io la faccio a tutti: quanto vale la vostra vita? Per quanto vi fareste sparare a morte da un'altra persona? E mentre ci pensate, io vi invito a riflettere a tutto questo, e nell'attesa del prossimo mercoledì per la prossima puntata del Vagabondo in giro per il mondo, mi raccomando, pensate a queste cose che sono molto importanti e, come sempre, siate saggi.